Streichung ist ein Zweifel. Das sind die grauen Pupillen, die Lieder. Was war das? Kein Mensch dreht die Zeit zurück. Vorbei, verweht, nie wieder. Nie wieder. Du musst auf deinem Gang durch Städte wandern, siehst einen Pulsschlag lang den fremden anderen. Es kann dein Feind sein, es kann dein Freund sein, es kann im Kampfe dein Genosse sein. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue. Sono le ore 18 e 2 minuti di venerdì 28 settembre 2006. Mi trovo alla sala da tè Giolitti, al laghetto dell'Eur, e questo è un luogo in cui si mescolano in modo un po' bizzarro i segni dell'urbanistica monumentale del ventennio con questi succulenti aperitivi dei middle manager di oggi, all'alba di un terzo millennio molto meno ambizioso evidentemente del previsto. E per questa quinta puntata di Due Occhi da Straniero sono in compagnia di Eliana Losa Schiano, corrispondente in Italia del quotidiano venezuelano El Universal. Eliana, intanto grazie della tua disponibilità. Tu sei arrivata in Italia 7 anni fa. Vorrei chiederti innanzitutto quali erano le tue aspettative prima di partire per l'Italia, che cosa ti ha deluso, che cosa invece ti ha sorpreso positivamente. Ecco, io sono venuta in Italia per la mia richiesta al giornale, perché era un mio sogno da quasi tutta la vita. Io sono di origine italiana, sono nata in Venezuela da genitori italiani, quindi volevo assolutamente avere questa esperienza di vivere in Italia. Avevo delle grandissime aspettative, perché l'Italia che mi è stata raccontata, non tanto da mia madre ma quanto dai nonni, è un'Italia che non esiste più. Io venivo un po' con quell'idea e mi sono un po' delusa, perché era assai diversa. È vero che venivo spesso in Italia, sia in vacanze che per fare dei servizi giornalistici, e forse anche negli ultimi anni è cambiata ancora di più di quanto io l'avevo vista in quegli anni. E comunque mi ha deluso in certi aspetti, ma non in tutti. Italia è sempre il paese più bello del mondo, non c'è dubbio, e è sempre un piacere vivere qui, è una bellissima esperienza. Ecco, ti faccio subito una domanda un po' scomoda, impegnativa. Cosa credi che debbano imparare gli italiani dai venezuelani e i venezuelani dagli italiani? Una domanda difficile, perché essendo latini abbiamo più o meno gli stessi difetti e gli stessi pregi, però io direi, vivendo a Roma, questo non dico di tutta l'Italia ma parlo di Roma, io vedo nei romani, scusatemi se sono molto sincera, una grande maleducazione, una grande aggressività. In Venezuela non è che siano ben educati, c'è anche questo problema, però la gente è molto più rilassata, non c'è questa aggressività. Magari sì, la vedi nel guidare, quello è inevitabile, perché dove c'è molto traffico la gente tende a innervosirsi. Però ecco, le commesse a Roma sono, io direi, sgradevoli. In Venezuela sono più rilassate, sono più facili, questo forse si potrebbe imparare. Forse una caratteristica del tropico è tutto questo famoso mañana, tutto si lascia per mañana, per domani, questa un po' di indifferenza così che fa le cose più leggere, forse ci vorrebbe un po'. E invece al contrario, che cosa dovrebbero imparare i venezuelani dagli italiani? Dovrebbero forse lavorare di più. Sì, infatti in Venezuela c'è questa immagine dell'italiano che è molto lavoratore, perché ovviamente gli italiani sono arrivati più o meno negli anni 50, dopo la guerra, e si sono fatti onori, hanno veramente fatto il paese. Venezuela è stata fatta dagli italiani in tutti i sensi, quindi c'è questa immagine dell'italiano molto lavoratore, imprenditore, fantasioso, e forse questo dovrebbero imparare, sì. Ecco, tu sei arrivata da noi praticamente all'inizio dell'affermazione definitiva di quello che noi chiamiamo il berlusconismo, e quindi ho potuto osservare senza troppi condizionamenti pregressi questo fenomeno che secondo molti ha radicalmente inciso sulla realtà italiana sotto il profilo, direi, della cultura e del costume degli italiani, prima ancora che sotto il profilo politico ed economico. Tu che idea ti sei fatta in materia? Beh, Berlusconi è un strano fenomeno, però non è unico. In Venezuela succedono cose simili. Io non direi che il costume sia cambiato. C'è una grossa parte della popolazione, la metà della popolazione che è berlusconiana, ma l'altra metà non lo è. Io non credo che sia cambiato molto la vita per nessuna delle due metà. Per chi fa politica magari sì, ma per la popolazione no, forse... malcontenti ci saranno chiunque sia al governo, l'altra metà sarà sempre contraria. Ecco, però da questa domanda che ti ho fatto ne consegue necessariamente un'altra. Berlusconi da una parte e Chavez dall'altra parte sono personaggi molto distanti dal punto di vista delle idee, indubbiamente, però hanno sicuramente in comune questa capacità di comunicare, di coinvolgere, di far sognare larghi strati della popolazione. La sensazione è che, al di là del merito dei programmi, l'uso di queste leve emotive della comunicazione sia ancora un elemento decisivo per vincere in politica. Ecco, in cosa secondo te si distingue lo stile dei due personaggi? Quale, poi, soprattutto dei due, secondo te, è più moderno? Beh, si assomigliano, sì, effettivamente, perché hanno questa grande capacità di comunicazione. Però attenzione, sì, in tutti i due casi loro fanno colpo su un settore della popolazione. Forse in Italia è più vasto perché sarebbe la metà. In Venezuela sembrerebbe molto grande la fetta di Chavez, invece no, è un settore determinato della popolazione. Se vai in Venezuela ti renderai conto che nessuno vuole a Chavez. Però sì, è vero che hanno questa facilità di comunicazione, quest'uso dei mezzi, parlare nella stessa lingua del popolo, con le stesse barzellette, le stesse cose che usa il popolo, questo fa colpo in molti. E poi hanno questa caratteristica, scusate se lo dico così apertamente, di essere sfacciati. Proprio questa sfacciataggine a molti piace e a molti disgusta molto. Ecco, passiamo proprio all'attualità italiana. Vorrei un tuo giudizio sui primi mesi del governo Prodi, sulle liberalizzazioni del ministro Bersani, sulla politica estera del ministro D'Alema, sulle difficoltà legate in questi giorni all'approvazione della legge finanziaria. Beh, i primi mesi Prodi non è che si poteva aspettare molto di più. Penso che abbia un'evoluzione più o meno normale, perché Prodi prende il governo con pochissima differenza di voti in un momento molto difficile, dovendo contrastare poi un governo che è stato molto forte, molto difficile come il precedente. Quindi finora mi sembra che sta facendo quello che può fare. Nella politica estera non vedo molte differenze, ma questo lo posso capire. Non credo che nessun governo possa rivoluzionare una linea di politica estera in questo momento, purtroppo, no? Si dipende molto da quello che dica gli Stati Uniti, dal problema di Iraq, di Afghanistan, insomma. Io personalmente sono contraria che ci siano le truppe in questi due paesi, ma ormai ci sono, non è che se ne possono andare così. Quindi sì, sono problemi che non vedo che si possano cambiare così facilmente. Penso che si sta facendo quello che può. Senti, però il passaggio, diciamo, da un tacito accordo del nostro governo con Berlusconi rispetto alla logica dell'unilateralismo di Bush ha invece la promozione di un multilateralismo, cioè tu lo avverti in qualche modo o è solo un'operazione di facciata per recuperare consenso interno? No, è un'operazione di facciata sicuramente, no. Ci sarebbe da cambiare tante cose lì. Ecco, nella prima intervista di questa serie Dominique Danglars di Le Point mi confidò che secondo lui tutte le aspettative per un rapido cambiamento della società italiana come conseguenza immediata delle elezioni politiche vinte dal centro-sinistra erano, come dire, troppo ottimiste. e che secondo lui i grandi cambiamenti in realtà richiedono una prospettiva molto più lunga. Sei d'accordo con lui oppure vedi comunque in questi primi mesi qualche reale segnale di cambiamento? Sì, sono d'accordo con lui, come ho appena detto nella domanda precedente, non è che si possono fare dei miracoli, in tre mesi, un po' più di tre mesi si fa quello che si può. Ci sono dei cambiamenti, come hai detto tu, però sì, si deve vedere poi a lungo termine, sì. Ecco, io ho letto una tua intervista del 2002 per il sito Il Barbiere della Sera, in cui dichiarasti il tuo sostanziale stupore per il fatto che la stampa italiana continuava a snobbare il Sud America, finendo quasi sempre per parlare di Stati Uniti, Europa, Medio Oriente, e questo anche quando in Sud America succedeva qualcosa di molto importante. In quell'occasione mi pare che il fatto che era stato ignorato era una manifestazione in Argentina che era stata repressa con le armi fondamentalmente dal governo argentino. Ecco, tu come spieghi questa distanza tra i nostri media e il Sud America? Cioè, secondo te è solo una questione di impreparazione, di superficialità, o è proprio invece il frutto di una precisa scelta editoriale? Sono tutte le cose, sì. C'è una grande ignoranza, una grande distanza non solo geografica, che poi non si spiega perché siamo tutti di origine europeo, e questa è una cosa che sia i politici, sia i giornalisti, sia tutti devono tenere conto, che il Sud America è l'unica parte del cosiddetto terzo mondo che è di origine europea, di cultura cristiana, insomma siamo più o meno gli stessi, anche se con differenze ovvie. Quindi non mi spiego molto perché. Poi ci sono una grandissima quantità di italiani in Sud America, quindi solo questo fatto basterebbe perché fosse importante, invece non lo è. Io penso, per esempio, nei giornali della TV, credo che sia un fatto di pigrizia. Io vedo che usano molto i servizi tipo CNN, tipo questi servizi internazionali che ti danno il pacchetto già confezionato e usano quello, vedi che tutti hanno le stesse immagini, gli stessi commenti, non c'è nessuna differenza o pochissima tra un TG e un altro, perché è più comodo usare quello che viene già fatto che magari mandare un corrispondente in Sud America, costa meno anche. Forse sarà questo, non lo so. Sì, però insomma anche Venevisión, Globo, insomma le grandi organizzazioni dei media sudamericani, anche loro confezionano le loro, diciamo, veline. Però insomma siamo noi che non le vogliamo usare. Sì, loro le usano soprattutto per una questione economica, perché non hanno tanti soldi da mandare corrispondenti dappertutto, ma qui lo potrebbero fare, lo fanno un po' per comodità e perché non hanno ancora capito l'importanza del Sud America, credo. Ecco, sempre in quella intervista parlasti anche della stampa venezuelana nel 2002 e l'avevi descritta come molto appiattita sulle posizioni del governo di allora, con serie limitazioni alla libertà d'espressione. È cambiato qualcosa da allora o siamo sempre allo stesso livello? È peggiorato, perché all'inizio Chavez aveva quasi tutta la stampa contro, no? Sono pochi giornali che sono in favore suo. Però ha fatto, siccome lui cambia la Costituzione ogni volta che le pare, ha cambiato la Costituzione, ha fatto delle leggi che sono delle vere censure, quindi c'è una censura. Non è molto evidente, soprattutto nei giornali, non è che c'è un censore che va a vedere cosa scrivi, no. Però c'è quasi quasi un'autocensura, proprio per non avere dei conflitti troppo grandi, perché se no ci sono delle repressioni che vanno dalla impossibilità di comprare la carta, ad esempio, a, come è successo, a qualche menata a qualche giornalista quando esce dalla redazione. Quindi per diplomazia magari un po' si è calmato questo antichavismo, anche se continua, ma meno. Invece poi i mezzi che sono favorevoli al governo, non hanno problemi. Si riesce ancora a distinguere tra la stampa che lui controlla direttamente, cioè per esempio la TV di Stato, la radio di Stato, e la stampa privata, che lui ha sempre considerato come nemica? Sì, perché poi c'è questa caratteristica che lui quando parla fa, quando le pare, non sempre, fa la rete unificata. quindi devi per forza vedere Chavez, no? Anche se vedi un canale commerciale che magari è contro di lui. E con la stampa scritta, sì, ci sono dei giornali che sono favorevoli a lui, ma non è che sono molto, non hanno molto successo, no? E la radio è la stessa cosa, lui quando vuol parlare fa le reti unificate, tutti dobbiamo per forza sentirlo. Ho capito, ma in qualche misura conosciamo questo tipo di situazione. Un tema che hai affrontato più volte nelle tue corrispondenze è quello del rapporto tra il governo Chavez e la Chiesa Cattolica, che è un rapporto chiaramente difficile, controverso, in cui Papa Ratzinger sta giocando un ruolo sicuramente da non sottovalutare. A questo proposito vorrei chiederti, ma quanto può il Vaticano influenzare le vicende politiche interne di un paese come il Venezuela? Vaticano come Stato non credo che possa fare moltissimo, però la Chiesa sì, perché Venezuela è un paese molto cattolico, quindi Chavez, anche se ogni tanto gli vengono infuriati discorsi contro la Chiesa, sa molto bene che il popolo, specialmente il popolo al quale lui vuole rivolgersi, è molto cattolico, quindi non si può mettere contro la Chiesa. E quindi ha fatto dei grandi sforzi per dialogare, è venuto a vedere il Papa, ha visto anche il Papa precedente, quindi, e siccome prima di vedere il Papa ha avuto dei seri problemi con la conferenza episcopale, e quindi per lui era molto importante cercare di fare una figura un po' più calma, diciamo. Ecco, però insomma Chavez va a trovare il Papa, anzi i Papi, il presidente della conferenza episcopale venezuelana, che è Baltasar Porras, anche lui va dal Papa e approfitta in qualche modo del momento di esposizione mediatica per dire che Chavez dispone a suo piacimento delle istituzioni, che divide i suoi interlocutori in amici e nemici, anche chiesa amica, chiesa nemica. Ecco, io non vorrei dire che il Vaticano sia diventato una specie di tribuna politica venezuelana, però insomma poco ci manca. Cioè è diventato un luogo dove queste due parti in qualche modo si confrontano. Il Papa sapeva molto bene chi era Chavez, non è una novità, non è la prima volta che Baltasar Porras andava a trovarlo, e il Papa è molto ben informato di quello che succede in Sud America. Quindi segue con attenzione, andrà in Sud America l'anno prossimo e ascolta Chavez, perché come Stato Vaticano diplomaticamente deve farlo, e sì, lo ascolterà, però sa molto bene quello che succede. Non credo che sia proprio una tribuna, non ho detto così, sembra ha un'altra connotazione, però è ovvio che il Papa è interessato alla continuazione del normale svolgimento della Chiesa, che i cristiani siano trattati bene, ma siccome sono tutti cristiani non c'è questo problema. Appunto è Chavez che ha bisogno del Papa, è Chavez che vuole fare un passo indietro. Ecco, diciamo che è un grande comunicatore, però quanto funziona il grande comunicatore Chavez quando dice che il suo governo si ispira al messaggio del Vangelo e poi due giorni dopo dice che comunque alcuni alti esponenti della Chiesa Cattolica Venezuelana erano nel golpe del 2002 che voleva disarcionarlo dal potere? Cioè, come reagisce la popolazione che comunque lo sostiene, cioè quella parte di popolazione che lo sostiene, rispetto a questa apparente contraddizione? Questa è una domanda che si vede che hai capito il personaggio. Lui è un sfacciato, lui usa quello che le pare, quando le pare e come le pare. Dice tutto e il contrario di tutto secondo la sua convenienza. Sa molto bene che con la Chiesa non si può lottare contro, perché il popolo è con la Chiesa. Quindi quando le conviene, la Chiesa è il cancro del mondo, come l'ha detto una volta, quando non le conviene prende la croce, io sono cristiano, lui in tutti i suoi discorsi fa sempre delle citazioni del Vangelo, delle citazioni di Marx, tutto, lui fa un'insalata di tutto quello che è bello. Quello che da noi chiameremo un catto comunista. Ecco, comunque, leggendo i tuoi articoli ho visto che sei molto attenta a quello che succede dentro le mura vaticane, non posso non chiederti un parere sulla vicenda delle dichiarazioni di Benedetto XVI sull'Islam. Secondo te le parole di un Papa su temi così delicati hanno davvero un peso tale da sfuggire alle normali valutazioni sui temi della libertà d'espressione, sulla libertà di critica? Beh, qui ci sono diversi aspetti da analizzare. Innanzitutto il Papa ha fatto questo discorso non come pastore della Chiesa, non come Papa, non dal Vaticano, ma come un professore, come un accademico, che è diverso, anche se è sempre il Papa, però il contesto è diverso. Poi non ha detto niente di terribile, ha detto una verità storica, una citazione nemmeno sua, quindi obiettivamente parlando non c'era niente di grave. Però dall'altra parte certi islamici, non tutti, approfittano qualsiasi cosa per fare una rivoluzione in piazza, anche se il Papa avesse detto delle parole più soavi, qualsiasi cosa avesse detto, se a loro conviene fare una manifestazione in piazza la fanno. È una scusa che per loro è andata a pennello proprio. E quindi sì, c'è da stare attenti per non provocare, però in fondo perché il Papa non dovrebbe dire quello che pensa, in questo contesto ancora di più, perché non è esattamente quello che pensa, ma lui è voluto arrivare proprio alla conclusione che tutti ci aspettiamo, che nessuna religione ha diritto di fare delle guerre in nome di Dio. È questo che ha voluto dire, sono degli esempi pratici, veri, storici, quindi non vedo perché ha dovuto suscitare questa ira. Però si capisce che questi popoli proprio quello vogliono per fare grandi storie. Die Lieder, was war das? Kein Mensch dreht die Zeit zurück. Tutte le interviste di Due Occhi da Straniero sono pubblicate con licenza Creative Commons e sono scaricabili dal sito dueocchidastraniero.wordpress.com. La musica della sigla, per gentile concessione dell'etichetta Bella Musica Edizione, è Zwei Fremde Augen, cantata da Salome Kammer e tratta dal film Heimat 2, cronaca di una giovinezza di Edgar Reitz. Per i vostri commenti e suggerimenti potete scrivere ad antoniocontent@yahoo.it. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die braue Pupillen, die Lieder. Was war das von der großen Menschheit ein Stück? Vorbei, verweht.